Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e otto minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, conclusione del G8, già i nostri GR ve l'hanno anticipata per quello che riguarda i passaggi principali, anche e soprattutto di politica estera. Noi ci concentreremo come sempre sulla parte economica. Notizie ce ne sono, molti casi, come già vi abbiamo raccontato in questi giorni. In realtà è un inizio, penso alle regole sui mercati finanziari e sulle transazioni finanziarie a livello mondiale, se ne riparlerà a Pittsburgh al prossimo G8. Penso anche alla parte che riguarda il commercio mondiale, c'è una dichiarazione di intenti per non abbandonare lo spirito della WTO e quindi il cosiddetto Doha Round. Anche lì però si rimanda poi a successivi incontri. Iniziativa invece che dovrebbe essere concreta sull'Africa, 20 miliardi di aiuti. E poi avremo una riflessione, questo però nella seconda ora del programma, su ciò che resta del G8 a livello di luogo delle politiche economiche. Il G8 ha sempre avuto infatti un ruolo, oltre che chiaramente di politica estera, anche e soprattutto di indirizzo di quella che è la politica economica internazionale. Da più parti sentiamo dire che ormai il G8, c'erano degli articoli anche oggi sui quotidiani, come formula in sé non ha più senso, è meglio parlare di G14, quindi allargato appunto ai paesi del BRIC, Brasile, Russia, India e Cina, con anche l'Egitto o altri paesi, e che quindi insomma questo G8 dell'Aquila sarà l'ultimo G8 o decreta in qualche modo la parte finale del G8, così come l'abbiamo conosciuto in questi anni. Ma parleremo nella seconda ora anche del nuovo assetto o dei nuovi pesi a livello geoeconomico che emergono da questo vertice. È chiaro infatti che le due cose si tengono, il numero dei paesi va ad allargarsi perché ci sono paesi che pesano molto di più di prima e paesi, tra cui l'Europa, che pesano meno di prima. Per quello che riguarda poi le altre notizie, visto che molti di voi ci chiedono sempre del rapporto banche-imprese, oggi lo affronteremo in maniera un po' diversa dal solito, cioè dopo l'invito fatto dal ministro Tremonti 2 giorni fa alle banche a compiere una moratoria sulle scadenze dei crediti alle imprese. In cambio Tremonti si è detto disponibile a ragionare su una minor pressione fiscale o defiscalizzazione di alcune sofferenze bancarie, quelle legate soprattutto appunto ai prestiti dati a certe imprese. Si attende la prossima settimana l'incontro a tre, perlomeno a tre, Confindustria, banche e governo, per arrivare a una moratoria. Ci è stato segnalato da più parti che in realtà molte banche in questo periodo si avvalgono anche di agenzie investigative per capire l'affidabilità del soggetto che chiede credito. Non c'è nulla di strano, una parte dell'attività la può svolgere la banca, non tutta, e allora sarà anche, diciamo così, curioso vedere che cosa fanno le agenzie investigative, che di solito si occupano di altro, nei confronti delle banche quando a loro viene chiesto di cercare di capire l'affidabilità di un cliente. Poi, come sempre, la notizia in breve è la borsa che si avvia a chiudere la settimana in maniera negativa, a meno 1,6%, il FTSE MIB è a 17.800 punti. Molti di voi ci chiedono, ma insomma dai massimi la borsa quanto ha ritracciato, quanto di nuovo ha perso? Non è una cifra imponente, però diciamo che se prendiamo come massimo del recupero quello che è avvenuto tra il 5 marzo e l'8 giugno, in cui la borsa oggettivamente è arrivata a recuperare cifre importanti su alcuni titoli, il 30-40%, comunque dall'inizio giugno ora c'è stato di nuovo un calo di circa il 10-12% per quello che riguarda gli indici generali, non certo i singoli titoli. FTSE MIB, dicevo, meno 1,6%, FTSE All meno 1,5%, Parigi meno 1,2%, Francoforte meno 0,80%, Londra meno 0,1%, l'America perde lo 0,80% sul Dow Jones, invariato il Nasdaq, euro a quota 1,39 sul dollaro. I titoli, ST Microelectronics perde il 4,40, A2A al 3,70 come Saipem, il 3,40 lo perde Bulgari, il 3,20 Unicredito, il 2,90 lo perde Prismian, il 2,5 Mondadori, il 2,4 il calo di Unipol, il 2,1 quello di Mediolanum e di Finmeccanica, di Buzzi Unicem, meno 2% Enel, meno 1,80 Generali e Campari, ma anche Alleanza. Tenaris perde l'1,6 come Telecom Italia. E Fondieri Assai 1,5% il calo di Pirelli, del Banco Popolare e di Mediobanca, l'1,3% il calo di Fiat e di Eni. Fronte opposto, poca roba, Autogrill guadagna l'1,3%, CIR l'1%, UbiBanca più 0,4%, Parmalat più 0,2%. Il numero per i vostri sms resta sempre 349-238-6666, le notizie in breve. E partiamo come sempre dal petrolio, scende anche sotto i 59 dollari al barile il prezzo del greggio, quindi siamo ai minimi da metà maggio, anche in coincidenza con una stima dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, l'AIE, che ha previsto una frenata nella domanda mondiale di petrolio per il 2009, mentre si attende una ripresa nel 2010. Per la precisione, secondo l'AIE, la domanda calerà del 2,9% nel 2009 e scenderà a 83,8 milioni di barili al giorno. Poi una ripresa l'anno prossimo più 1,7%. Ancora sempre in tema di energia e petrolio, mentre oggi, per fortuna, poi arriveremo anche alle buone notizie, qualcuna ce n'è oggi, il prezzo del gasolio e della benzina cala alla pompa, la benzina costa oggi in Italia meno di 1,3 euro al litro, tutte le compagnie infatti hanno ridotto a partire da oggi il prezzo alla pompa, riduzione anche maggiore per il gasolio che è sceso vicinissimo a quota 1,1 euro al litro. Dicevo, mentre cala il prezzo alla pompa, nel frattempo oggi, durante l'assemblea di Assopetroli, il presidente Franco Ferrari Agradi ha ricordato come serve un dialogo tra, da un lato, le posizioni delle compagnie petrolifere e dall'altro quelle, le richieste dei consumatori finali. Crediamo che questo momento debba essere un momento di rilancio. Abbiamo dei grossi problemi, noi siamo posizionati nella filiera tra le compagnie petrolifere e il consumatore finale. La posizione è abbastanza scomoda, perché da una parte abbiamo un soggetto che ci fa pagare con delle dilazioni di pagamento strettissime, dall'altra invece abbiamo un soggetto che in questo momento non riesce più a fare fronte alle spese dell'energia. Noi abbiamo una serie di proposte, di cui alcune a costo zero da parte del governo, che secondo noi possono aiutare a rilanciare queste imprese, che fanno un lavoro fondamentale per questo paese. Noi stiamo sostenendo in questo momento interi settori, quindi i punti salienti che noi vorremmo è che le nostre aziende venissero riconosciute delle modalità di recuperare in modo privilegiato le accise che abbiamo nei nostri prodotti. Ricordo, 50% di quello che è il costo del prodotto petrolifero sono accise. Noi le paghiamo anticipatamente per conto dello Stato e le andiamo ad incassare quando poi il cliente riuscirà a pagarle. Vorremmo che venissero scorporate queste accise dai nostri bilanci, perché gonfiano i nostri bilanci artificialmente. Noi rientriamo nella Robin Hood Tax come rivenditori commercianti, non avendo nessunissima possibilità di influire sul prezzo finale per il consumatore. Gli altri soggetti che stanno nel comparto insieme a noi, le compagnie petrolifere, cioè dobbiamo trovare delle modalità di dialogo, perché noi abbiamo bisogno di migliorare le nostre condizioni di pagamento. Siamo disponibili a valutare delle contropartite, a trovare dei sistemi di monitoraggio e di tutela del credito, quindi per dare anche delle garanzie sotto questo profilo. Però ecco, abbiamo bisogno di collaborazione, perché questo è l'unico modo per innescare un meccanismo e un circolo virtuoso. Ancora, dicevamo che oggi qualche buona notizia c'è, cioè adesso vi arriviamo. Il Tesoro oggi forte calo nei rendimenti dei bot annuali e trimestrali. Chiaramente questa non è una buona notizia, o meglio, è una buona notizia per le casse dello Stato, non per chi i bot li vuole comprare. I titoli annuali infatti hanno perso 0,41 punti, il rendimento lordo medio ponderato, quindi prima delle tasse, sempre su base annua, è praticamente una cosa irrisoria, lo 0,85%. Tant'è che i rendimenti netti per i bot messi all'asta oggi sono praticamente pari a zero. E non a caso ieri ci siamo occupati invece dei grandi gruppi Eni, Finmeccanica, Wind, forse Enel e Telecom, che potrebbero emettere obbligazioni, perché insomma obiettivamente comprare un bot in questo momento dà la garanzia solo sul capitale. Il rendimento è 0,04%, lo ha calcolato l'Assium, che è l'associazione italiana operatori sul mercato dei capitali, ed è un valore bassissimo che si raggiunge applicando al rendimento medio ponderato la ritenuta fiscale del 12,5% e le commissioni degli intermediari. Questo per quello che riguarda i bot trimestrali. I bot annuali si arriva a un rendimento netto dello 0,46%, stiamo parlando chiaramente sempre su base annua, quindi lo 0,4 è quello che rende alla fine di tutto, delle tasse e delle commissioni, comprare un bot a scadenza un anno. Dicevo che c'è qualche buona, timida, buona notizia oggi. E allora, da un lato l'Unione Europea ha detto che continuano a essere persi posti di lavoro in Europa, l'emorragia di posti di lavoro l'ha chiamata Bruxelles, però aumentano i segnali di un rallentamento della disoccupazione rispetto ai primi 4 mesi dell'anno, cioè continuano ad aumentare i disoccupati ma in maniera meno veloce. Sono aumentati infatti di 380.000 unità a maggio rispetto al mese precedente. Il numero di senza lavoro in Europa ha toccato quindi la cifra di 21 milioni e 500 mila persone. Stiamo parlando di 5 milioni e 100 mila disoccupati in più rispetto al maggio del 2008, quindi a un anno fa. La buona notizia non è solo che rallenta l'emorragia di posti di lavoro, ma che se da un lato Bruxelles dice attenzione, la ripresa dell'Italia resta incerta, però ci attendiamo che vi sarà un impatto da settembre un po' sull'occupazione, oggi l'OCSE, che non è mai stato particolarmente tenero con l'Italia, ha sottolineato come attraverso il suo leading indicator, cioè un indicatore che utilizza per capire come si muove l'economia e il ciclo economico e che dovrebbe anticipare il cosiddetto ciclo economico, si vede come ci siano in Italia e in Francia tangibili segni di miglioramento nelle prospettive economiche. In Francia e in Italia, nel caso specifico, la crisi sembra avere toccato il fondo. E anche il dato di oggi sulla produzione industriale, meno 22,6% rispetto a un anno fa, è pesantissimo rispetto a un anno fa, ma è non così brutto se si guarda al mese precedente, è rimasta infatti invariata, quindi non è calata a maggio rispetto ad aprile. E poi pesa sulla produzione industriale il settore auto, meno 33,6%, tant'è che secondo il Centro Studi Confindustria a giugno vi potrebbe essere un primo rimbalzo nel dato sulla produzione industriale, più 0,6% rispetto al mese precedente. So che sono cifre che possono anche annoiare, ma in questo momento particolare stiamo guardando ogni singolo segnale d'elemento per capire che qualità possa avere questa fine della discesa continua, tant'è che anche la Presidente Confindustria Marcegaglia dice siamo ancora in una congiuntura molto difficile, ma c'è la percezione che la caduta si sia arrestata e che molto lentamente si comincia a risalire, lo ha detto la Marcegaglia a margine dell'incontro con gli imprenditori baresi. E per quello che può servire, con questo chiudiamo prima di passare al G8, il settore delle pelli e calzature, che è in estrema difficoltà, esporta pochissimo, però ha visto a giugno ridursi il ricorso alla cassa integrazione in maniera significativa, meno 16,5% il ricorso alla cassa integrazione nel settore calzaturiero. Questo per quello che riguardava i segnali che cerchiamo di cogliere, raccontare e anche in qualche modo spiegare quotidiani sul, come si dice in gergo, a che punto siamo del guado. Adesso ci occupiamo invece di che G8 lasciano i paesi, G8, G14 lasciano i paesi che vi hanno partecipato, che cosa di concreto al di là di tante analisi è emerso. ultimo giorno, infatti. Allora, andiamo rapidi perché moltissime sono notizie. La bozza del documento finale del G8 dice ci sono segnali di stabilità in questa crisi, si va avanti con le misure anticrisi. E poi i G5, cioè Brasile, Cina, India, Messico, Sudafrica assieme all'Egitto, sempre nella bozza, hanno detto, il documento finale, hanno detto lavoreremo insieme per rilanciare la crescita su un sentiero più sostenibile e incisivo. L'impegno per le persone, per la componente sociale, per l'occupazione come impegno prioritario dei vari paesi. Secondo il Presidente del Consiglio Berlusconi, dall'Aquila è arrivato un messaggio di fiducia, anche perché la crisi non può continuare ad aggravarsi. Il risultato più importante mi sembra quello di un messaggio di fiducia e di speranza verso i nostri concittadini. La crisi, che ha origini finanziarie, che si è poi estesa all'economia, si è ormai per la parte finanziaria, diciamo così, sfogata. Gli stati hanno deciso di intervenire per salvare il sistema delle banche. Ciò che doveva accadere è già accaduto nel sistema bancario. Significa che nel sistema dei mercati i titoli che si dovevano svalutare si sono svalutati. Chi non ha retto, perché magari protagonista di speculazione, ormai è fuori dal mercato. Chi invece aveva questi titoli a titolo di investimento li ha chiusi in un cassetto o in cassaforte e attende con fiducia che ci sia un rimontare del loro valore insieme con la ripresa economica mondiale. Quindi non ci sono oggi elementi sufficienti per continuare a pensare che la crisi possa continuare così o aggravarsi. Poi nel documento finale, quello in cui i paesi hanno concordato sulla strategia del cosiddetto Lecce Framework, insomma la cornice di regole promosse dalla presidenza italiana nel vertice di Lecce, per cui standard dei principi comuni dell'economia e della finanza approntati sull'integrità e la trasparenza. Vabbè, non poteva essere diversamente in questo caso. Difficile che uno dica che vuole standard diversi improntati sulla opacità e la corruzione. Però, al di là delle frasi un po' fatte, che sempre ci sono nei vertici, è uscita una forte cooperazione contro l'evasione fiscale e i paradisi fiscali, un codice di regole economiche basato su tre principi, ossia il diritto di proprietà, il valore dell'etica di mercato e la necessità di trasparenza. E anche di queste tre regole ha parlato il Presidente del Consiglio. Abbiamo parlato delle nuove regole che il mercato, non solo finanziario ma anche economico, si deve dare. Siamo in un nuovo secolo, l'economia non è più un'economia nazionale, è diventata un'economia globale. Non può essere governata con regole nazionali o anche soltanto continentali. C'è bisogno di un corpo di leggi e di regole che sia accettato da tutti i paesi, che possa essere valido in tutto il mondo. Anche qui abbiamo dato mandato alla OCSE, ai nostri ministri, per lavorare celermente a questo proposito, decidendo di fondare questo nuovo codice su tre principi essenziali: la sacralità del diritto di proprietà, il valore dell'etica, della morale, la necessità e quindi il valore della trasparenza. Anche su questo c'è stata unanimità di vedute, abbiamo dato il via a un approntamento il più veloce possibile di queste regole. E poi, per concludere il tema delle regole sulla finanza, il Presidente del Consiglio Berlusconi ha anche detto che tutto il G8 ha manifestato disappunto sul fatto che siano riprese le speculazioni internazionali e il vertice ha dato mandato agli organismi internazionali di decidere come intervenire soprattutto sugli hedge fund, sugli, i fondi più speculativi. Altro aspetto, e concludiamo, economico, riguarda l'Africa, gli aiuti ai paesi in via di sviluppo. Dai 15 ai 20 miliardi di fondo per la sicurezza alimentare, questo è lo stanziamento che è stato aumentato da 15 appunto a 20 miliardi di dollari per l'Africa, ancora più risorse meno protezionismo, dichiarazione congiunta con i paesi africani. E la crisi, hanno sottolineato i leader, rischia di mettere in difficoltà, di rendere difficile il raggiungimento degli obiettivi sull'Africa. E anche il Presidente del Consiglio Berlusconi ha ricordato che contro la fame si è deciso di spendere 20 miliardi in 3 anni. Ne hanno parlato di questi 20 miliardi sia Berlusconi che Barack Obama, ascoltiamoli uno di seguito all'altro. Il problema della insufficienza alimentare. Si è trovato l'accordo su tutto, abbiamo iniziato con un incentivo, con una messa a disposizione in un'iniziativa che abbiamo chiamato l'Aquila Food Security Initiative di 15 miliardi di dollari. Dopo il discorso che ha impegnato la colazione di lavoro del G8 con i paesi africani e poi del G14 aumentato di alcuni paesi europei con tutti i paesi africani e le organizzazioni internazionali, abbiamo avuto la soddisfazione di poter aumentare i 15 miliardi a 20 miliardi di dollari in 3 anni. We have committed to investing $20 billion in food security. Ci siamo impegnati per investire 20 miliardi di dollari sul fronte della sicurezza alimentare, su programmi di sviluppo alimentare per contribuire alla lotta contro la fame nel mondo. Voglio sottolineare che all'inizio dell'incontro si era parlato di 15 miliardi, ma siamo andati oltre, abbiamo ottenuto altri 5 miliardi di dollari. Non crediamo che questi aiuti mettano fine all'emergenza. Pensiamo invece che si debbano creare le condizioni per cui questi aiuti non siano più necessari. Occorre rendere le persone autosufficienti, in grado di provvedere alle proprie famiglie e ad innalzare i propri standard di vita. Ecco perché ho proposto un nuovo approccio, ossia fornire uno sforzo coordinato a sostegno dei programmi creati dagli stessi paesi in difficoltà. E questo con l'aggiunta dell'aiuto da istituzioni come la Banca Mondiale dove necessario, unito a un significativo sostegno finanziario da parte dei nostri paesi. Multilateral institutions like the World Bank, when appropriate, along with significant and sustained financial commitments from our nations. Poi c'è tutta la parte sul commercio mondiale e ripeto sui pesi e contrappesi, ma di questo, anche per insomma, non appesantire troppo il tema, ce ne occuperemo nella seconda ora del programma. Lo spezzettiamo un po' oggi questo G8, visto che siamo tracciando le conclusioni. Sergio Nava, uno dei nostri inviati all'Aquila, buonasera. Buonasera Sebastiano, buonasera agli ascoltatori. Allora, abbiamo fatto ascoltare i passaggi principali di quello che riguarda la bozza, il documento finale di oggi, però diciamo do a commercio mondiale regole finanziarie, il tutto però come inizio, perché in molti casi si è rinviato al prossimo G8, Pittsburgh, ma non solo. Sì, soprattutto per quanto riguarda le regole finanziarie è tutto rinviato, mi dicevi tu, a Pittsburgh e in realtà per un'approvazione definitiva ancora più avanti, quindi siamo veramente all'inizio e come ben sai alla fine questi standard globali, etici per l'economia e la finanza avranno veramente un valore quando saranno sottoscritti e firmati, finché siamo alle buone intenzioni è ancora abbastanza poco. Sì, posso aggiungere anche quando vi saranno le sanzioni certe, perché sennò... Chiaramente. Prego. La cosa interessante è un po' anche andare a vedere cosa hanno detto i vari leader oggi per quanto riguarda proprio anche la situazione dell'economia. Hanno fatto tutti un po' il punto, a partire dallo stesso Barack Obama, che ha detto apparentemente il mondo è riuscito a evitare un collasso economico, ma una piena ripresa è ancora lontana. Non abbiamo risolto tutti i nostri problemi, ha detto Obama, quindi con una certa schiettezza. Gordon Brown invece ha avvertito anche del rischio di una seconda recessione, peggiore della prima, qualora si verificasse un forte aumento del prezzo del petrolio e anche delle materie prime. È un vecchio pallino di Brown, se vogliamo, è da tempo che Brown dice attenzione all'aumento dei prezzi delle materie prime. E poi c'è anche Angela Merkel, la cancelliera tedesca, che ha messo un po' da parte tutte insomma le polemiche relative alla possibile sostituzione del dollaro quale valuta di riserva globale, un tema che la Cina ha sollevato tempo fa. La Merkel ha detto non è stato sollevato questo tema alla G8, ma ovviamente è qualcosa su cui occorrerà ragionare nel futuro. E infine anche Medvedev, il presidente russo, che ha detto per la Russia è più semplice e realistico entrare in solitario nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, il WTO, quindi senza Bielorussia e Kazakistan. Questo è un altro tema importante, da tempo la Russia chiede di entrare nel WTO e anche qui qualcosa, anche di questo tema ovviamente si è parlato. Tu ricordavi giustamente la Cina, che ieri è tornata col suo ministro degli esteri sul tema del vorremmo avere un paniere di valute, non solo più dollari, ma siamo ancora nel totale pourparler, nella parte iniziale di colloqui, di dichiarazioni. Forse la notizia più forte, diciamo, soprattutto per quello che riguarda alcuni elementi, è arrivata dalla Cina, ma è stata una notizia negativa, cioè il non aver firmato, diciamo, dei protocolli per quello che riguarda gli abbattimenti, la riduzione delle emissioni di gas nocivi. E ne prendo spunto, Sergio, per chiederti, concludendo, quali altri distinguo, oltre a quello arcinoto perché era su tutti i giornali, i paesi dei cosiddetti BRIC abbiano messo in campo, se l'hanno messo in campo. Cioè, al di là delle dichiarazioni di intenti, a noi è sembrato di vedere anche un G8 da una parte e dei G5 che dicono: bene, adesso sapete che esistiamo, la ripresa partirà da noi, adesso ci ascoltate. Sì, il messaggio è esattamente questo. Si è proprio visto un G8 paradossalmente molto d'accordo su alcuni temi, magari con impegni non sempre concreti, però comunque d'accordo sui principi, anche ambiziosi, perché dopo tutto dire dimezziamo le emissioni mondiali della metà entro il 2050 e noi stessi ci impegniamo a ridurre dell'80%, di una fortissima percentuale entro il 2050, è qualcosa tutto sommato di nuovo, se vogliamo. Questi impegni con l'America di George Bush non li avevamo visti. Però il G5, i paesi emergenti, chiedono il loro posto al tavolo, lo chiedono partendo dal clima, ma poi probabilmente alzeranno la voce anche su altre cose, e già lo stanno facendo, per esempio proprio sulla sostituzione del dollaro come valuta di riserva globale. Il G8 sta evolvendo, è sotto gli occhi di tutti, probabilmente, come dice lo stesso Berlusconi, ormai il vero forum è il G14, sì, o G13. Il G8 non c'è più, tanto è evoluto che ormai è un G14, non esiste più nella forma che abbiamo sempre conosciuto fino a qualche anno fa. Grazie al nostro inviato Sergio Nave, inviato, uno degli inviati di Radio 24 all'Aquila. Il meteo, la pubblicità e poi torniamo a commentare invece i mercati. Sì, do ragione a chi scrive al 349-238-6666, la partita valutaria, cioè la Cina che vuole in qualche modo sganciarsi parzialmente dal dollaro, è solo agli inizi, e se tanto mi dà tanto il peso della Cina e dell'India continuerà a aumentare perché si stanno riprendendo prima degli altri paesi occidentali, è una partita tutta da giocare. Chiusa per ora la parentesi del G8, spostiamoci alla borsa, ultima seduta della settimana, negativa, -1,7%. 87, quasi -1,8% FTSE MIB, che così dai massimi toccati inizio giugno ha perso circa un 10, un po' di più, un 11-12%, FTSE All andamento analogo, -1,7%, Milano tra le peggiori, Parigi perde l'1,4%, Francoforte l'1,1%, Londra perde lo 0,60%, l'America -1% sul Dow Jones, -0,60% sul l'indice Nasdaq. Chi ha guadagnato di più? Pochi titoli, chiaramente. Autogrill +1%, CIR +0,70%, Parmalat +0,20%. Chi ha perso? STMicroelectronics +4,60%, Saipem +4%, Bulgari +3,80% come A2A. Il 3,70% è il calo di Unicredit, il 3,20% quello di Prismian, il 2,6% lo ha perso Unipol, ma anche Mediolanum e Buzzi Unicem, il 2,1% lo hanno perso Finmeccanica, Telecom Italia, Pirelli, Banco Popolare, Tena e Tenaris. Paolo Paronetto, Radio Corri, Sole 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Prezzo del petrolio basso, basso comunque relativamente, ma insomma sotto i $59 al barile, con previsioni dell'AIE di una domanda di energia in calo quest'anno, e poi anche Chevron, uno dei colossi mondiali, quelle che una volta si chiamavano sette sorelle, che ha qualche problemuccio? Sì, esattamente. Oggi quello dei petroliferi è stato uno dei pochi temi specifici in una giornata che è stata caratterizzata per lo più da movimenti tecnici e da vendite generalizzate persistenti timori sull'orizzonte macroeconomico. Il petrolio anche oggi ha perso terreno, al momento il futuro agosto sul WTI si attesta attorno a quota $59 al barile, e inoltre, come ricordavi tu, è arrivato un avvertimento da parte di Chevron, che hanno avvertito che gli utili del secondo trimestre dell'anno sono stati colpiti dal calo dei margini di raffinazione negli Stati Uniti, e quindi si inizia a vedere gli effetti sui bilanci delle compagnie petrolifere di questo calo del prezzo del petrolio. Ovviamente questo annuncio ha peggiorato le prospettive per l'intero settore, che oggi è stato penalizzato dalle vendite a Piazza Affari. Questo si è visto in particolare su Saipem, che ha perso il 3,95%, ma hanno perso terreno anche l'Eni, che ha perso lo 0,87%, e tra i titoli che sono al di fuori dell'SFMIBA, ad esempio, ha perso terreno anche ERG, cedendo l'1,77%. Questo per quello che riguarda il settore energia e petrolio. Soprattutto oggi di nuovo in flessione anche alcuni bancari, Banco Popolare meno 2%, ma soprattutto abbiamo visto cedere ST Microelectronics. Sì, ST Microelectronics, anche qui si tratta in una seduta in cui è stata caratterizzata dalle vendite generalizzate. Gli investitori hanno preso quel po' di profitti che erano riusciti a registrare, dato che ST è reduce da due sedute consecutive di rialzo, ha guadagnato complessivamente nelle ultime due giornate circa il 5%, e quindi in una seduta di ribasso generalizzato sono stati venduti anche i suoi titoli. ST tra l'altro è stata una delle dei pochi titoli che ha registrato un bilancio del settimanale tutto sommato positivo. Il calo è soltanto dell'1,7%, dato che per il resto del listino in questa settimana ha registrato soltanto una seduta positiva, che è quella di ieri, mentre le altre sono state tutte negative. Ancora sui titoli, dopo il rilancio di Giovanni Tamburi su Management Capitali, lì ormai si va di opa in opa. Tamburi, tra l'altro, spesso nostro ospite per parlare di borsa, ma il rilancio è arrivato con la TIP, Tamburi Investitori. Però il titolo come si è mosso? Che le CIR si sono mosse bene, MNC? Esatto, MNC ancora meglio, ha guadagnato il 2,78%, ovviamente il titolo è finito sotto i riflettori, essendo al centro di due OPA concorrenti. Come ricordavi tu, è partita la famiglia Segre attraverso Mimosa a lanciare questa OPA a 0,08 euro per azione. Ieri c'è stato il rilancio da parte della TIP, e ovviamente adesso il mercato cerca di anticipare quali potrebbero essere le contromosse, se ci saranno, da parte della famiglia Segre, e quindi il titolo sotto i riflettori oggi è stato premiato dagli acquisti in controtendenza rispetto al mercato. Ancora due titoli, T-Media, sui giornali era uscito l'interesse di Tarak Ben Ammar, uomo non solo dentro la Mediobanca ma anche vicino storicamente a Silvio Berlusconi, per T-Media, quindi la parte legata ai media del gruppo Telecom, in sostanza principalmente La7, il canale televisivo La7. Come si è mosso il titolo T-Media? Sì, Media ha beneficiato di questi rumors su un possibile interessamento di Tarak Ben Ammar come intermediario per un'eventuale vendita dei canali televisivi di Telecom Italia Media. È notizia che tuttavia è stata smentita innanzitutto dalla stessa Telecom Italia Media, che comunque ha confermato, cioè ha smentito vendite di La7, dicendo che comunque sono allo studio possibili iniziative per ipotesi di valorizzazione degli asset. E poi dallo stesso Ben Ammar, i titoli comunque, pur limitando i guadagni, hanno chiuso positivi, e le azioni ordinarie hanno guadagnato il 3,7%, ancora meglio quelle di risparmio, che hanno fatto più 8,6%. Ultimo titolo che vorrei commentare con te è A2A, perché ho capito il tema energia, però era per alcuni tratti il peggior titolo della seduta, poi comunque chiuso con un meno 3,80%. Sì, A2A è stata per gran parte della seduta il peggior titolo, poi sul finale ha limitato un po' i danni, ha chiuso a meno 3,8%, e si sono segnalati alcune voci che però non hanno trovato conferma sul mercato, e che quindi secondo gli operatori non sono responsabili della flessione odierna. Secondo molti operatori si tratta anche qui soltanto di un alleggerimento tecnico del portafoglio per questo titolo, che come quello degli utility è stato uno di quelli che ha tenuto meglio nelle passate sedute alla generale flessione dei mercati. Poi sospesa al rialzo un titolo, quello Cobra, lì c'è una storia molto strana, Cobra Automotive Technologies più 40% nel finale, in una battuta riusciamo a darlo che siamo sicuramente sforando. La regina della seduta beneficia dell'annuncio di ieri di lo sviluppo di attività in Asia con Hyundai e Kia, attività che dovrebbero generare ricavi annuali per circa 1,6 milioni della società a partire dal 2010. E Cobra è una piccolissima società di Varese che opera nelle soluzioni sulla sicurezza per il mondo automobilistico, e quindi più 40%. Complimenti a Cobra. Buon fine settimana a Radio Core, a tutti i colleghi di Radio Core Sole 24 Ore. Grazie a Paolo Paronetto. Di nuovo in diretta il rapporto tra banche e imprese, uno dei temi di attualità di queste settimane, di questi mesi, e si dice spesso che le banche dovrebbero fare di più sul territorio per capire a quali imprese affidare i prestiti, perché le banche giustamente non sono organismi di beneficenza, sono imprese loro stesse, però non è nemmeno utile fare di tutto nel buon fascio. Ebbene, stanno prendendo piede sempre di più le agenzie investigative. Dottor Vincenzo Francese, amministratore delegato di Axerta Investigazioni, buonasera. Buonasera. Ormai voi, intanto mi dica che tipo di investigazioni fate, quelle pre-fido, giusto? Sì, sono delle informazioni che non sono informazioni commerciali, sono indagini commerciali piuttosto, quindi sono informazioni che si differenziano soprattutto per la qualità e il contenuto caldo. Perché voglio dire, la banca ha tutto un insieme, poniamo che io sia una banca, io ho tutto un insieme di dati su un cliente, esatto, che mi chiede un prestito. Voi, certo, intanto operate sopra i 50.000 euro, se ho ben capito le richieste principali. Sì, in grandi linee. Sì. Una persona mi chiede, un imprenditore mi chiede un prestito da 50.000 euro, io ho tutto un insieme di criteri quantitativi interni, oltre che Basilea 2 più, certo, da rispettare. Perché mi rivolgo a voi? Si rivolge per controllare qual è la situazione di fatto dell'imprenditore, nel senso che sicuramente il carteggio della pratica istruttoria contiene una serie di dichiarazioni, tra cui autocertificazioni oppure dichiarazioni dei redditi, misure camerali, bilanci, tutti i dati freddi. E a noi viene richiesto invece una verifica di quella che è la situazione di fatto, quindi sul posto molte volte troviamo situazioni completamente diverse da quelle palesate nell'ambito di una misura camerale piuttosto che un'autocertificazione. Allora, intanto se ho ben capito, voi le richieste maggiori le avete dalla Lombardia, dal nord-est della Toscana, dove ci sarebbero tra l'altro le sedi centralizzate delle banche. Seguiamo il PIL ovviamente. Esatto. Allora, io ho tutto un insieme di dati su questa impresa, sono una banca, l'impresa mi ha chiesto 100.000 euro di prestito, non mi bastano questi dati, che cosa vado a chiedere a voi e voi che cosa andate a cercare di caldo? Cosa sono queste telefonate, pre-test call, telefonate pretesto, capisco io, o interviste mascherate? Sono attività investigative che vengono svolte sul posto, in cui si... ricevono dei dati appunto caldi sulle persone che fanno l'azienda, quindi sui rumors di zona riguardo all'azienda, sulle referenze dei fornitori, quindi se sono buoni o cattivi pagatori, e soprattutto constatiamo la concretezza di quanto dichiarato. Quindi, ma è vero che fate anche interviste tra virgolette trabocchetto? Beh, oddio, ognuno le può chiamare come... Pre-test call fa più figo, sì, però insomma, infine, sempre di questo stiamo parlando. Cioè, una telefonata che viene fatta per apparentemente per alcuni fini, in realtà si cerca di capire, sempre riferito al cliente che ha chiesto un prestito. Allora, questo strumento investigativo è uno dei più artistici, se vogliamo, nel senso che chi riesce a farlo bene possiede delle qualità tali per cui riesce, parlando di un argomento, riuscire a ottenere informazioni su un altro argomento. Sì, lo si fa anche nella vita quotidiana, magari io chiedo a una persona, però tutte queste informazioni diventa abbastanza complesso. E le interviste mascherate cosa sono? Beh, no, le interviste mascherate sono non fisicamente mascherate, non mica esatto, Cucu, clan, però sembra un carnevale dell'investigazione. Rientrano nella stessa fattispecie, mentre le pre-test call sono fatte telefonicamente, nella stessa maniera le interviste sul posto vengono attuate con le stesse modalità e gli stessi obiettivi, cioè parlo di un qualcosa di cui posso parlare cercando di ottenere informazioni senza chiederle direttamente. Allora, adesso avrò bisogno di due risposte rapidissime. La prima, sono aumentate le richieste da parte delle banche di andare a investigare, appunto come fate da investigatori, la reale situazione dell'impresa, sì o no? Molto. E ogni tanto riuscite anche a dare delle risposte più positive di quello che la banca non si attendesse, o sono sempre peggiorative? Ma non è in questi termini, nel senso che noi non abbiamo un riscontro di quella la delibera o lo stato della pratica della banca. Noi vengono chieste delle informazioni e noi accertiamo la situazione di fatto, quindi non abbiamo questo confronto. Grazie e buon lavoro all'amministratore delegato di Axert Investigazioni, Vincenzo Francese. Alcuni scrivono, sarà anche perché alcune banche non riescono più a conoscere bene le aziende del territorio, sì e no, in realtà quello che le agenzie di investigazione vanno a fare è una cosa un po' diversa oggettivamente da quello che fa qualunque direttore di filiale o responsabile di area. Sicuramente la cosa interessante è vedere che insomma, alla fin fine qualunque strumento è buono e soprattutto che le richieste da parte delle banche agli investigatori sono aumentate tantissimo. minuti, ultima parte di Focus Economia nell'ultima puntata della settimana. E allora, dopo aver scoperto come le agenzie investigative stiano dando una mano alle banche per capire quali crediti concedere, a chi concedere crediti, torniamo ai temi tra virgolette alti, ma sono quelli più generali, quindi di nuovo il G8. Ricordo a chi si fosse appena messo in collegamento che la borsa ha chiuso negativa, praticamente si è mangiata quel rimbalzo di ieri, meno 1,7%, che sono arrivate alcune notizie abbastanza positive, sempre all'interno di uno scenario difficile, ma insomma sebbene continui a aumentare in Europa l'emorragia di posti di lavoro, 380.000 disoccupati in più a maggio, a questo punto il numero dei senza lavoro è 21.500.000 in Europa, 5 milioni in più rispetto al maggio del 2008, però è rallentato il tasso con cui cresce questa disoccupazione, è già qualcosa. E poi ancora, per quello che riguarda l'OCSE, una buona notizia per l'Italia e per la Francia, perché il leading indicator, se un indicatore, un indice che usa l'OCSE per capire come va la congiuntura economica, segnala, cito testualmente, che il ciclo economico dà tangibili segni di miglioramento nella maggior parte dei paesi membri dell'OCSE e stanno emergendo segnali di potenziale ripresa, nel caso specifico in Francia e in Italia, dove, dice l'OCSE, la crisi sembrerebbe aver toccato il fondo. Questo in un giorno in cui comunque la produzione industriale italiana ha segnato un meno 22,6% rispetto al maggio del 2008, però rispetto ad aprile è rimasta invariata, quindi non è calata ulteriormente nel mese. Su mese pesa tantissimo in questo dato soprattutto l'industria dell'auto, meno 36%, poi male anche i macchinari, meno 36% anch'essi, apparecchiature elettriche, meno 34%, metallurgia, meno 29%. Tengono, rispetto a queste cifre, invece, gli alimentari, le bevande, i tabacchi, meno 2%, e anche l'industria tessile, l'abbigliamento, le pelli e tutte le accessorie, Made in Italy classico, meno 2,9%, che non è male in questo periodo. Tant'è che il Centro Studi Confindustria si spinge a dire che a giugno dovrebbe esserci un rimbalzo nella produzione industriale italiana più 0,6%, e che una cosa che ci ha fatto così ci ha incuriosito, il ricorso alla cassa integrazione nel settore calzaturiero ha avuto un calo brusco, per fortuna aggiungiamo noi, proprio negli ultimi mesi, perché rispetto comunque a un ricorso che durava da mesi ha fatto un meno 16% il ricorso alla cassa integrazione su base mensile nell'industria calzaturiera. Questi dati cosiddetti congiunturali. Torniamo al G8. G8 che oggi nel documento finale ha detto vi sono segnali di stabilità, di stabilizzazione dell'economia mondiale e di maggior fiducia, anche se bisogna andare avanti con le misure anticrisi e occorre rilanciare la crescita. Su questo anche i G5, quindi Brasile, Russia, India e Cina assieme all'Egitto si sono detti d'accordo. Mettere al centro l'occupazione e i temi sociali, nuove regole per la finanza globale, l'abbiamo già ricordato nella prima parte del programma, forte cooperazione contro l'evasione fiscale, contro i paradisi fiscali, i fondo per l'Africa che passa da 15 a 20 miliardi e poi l'appello al non ricorrere a strumenti protezionistici, ossia chiudere il Doha Round, che un giro importantissimo in quello che è il giro più ampio del commercio mondiale, entro il 2010. Su questo è intervenuto anche il Presidente del Consiglio Berlusconi, che ha detto a settembre vi sarà, proprio sul tema del Doha Round, che è, diciamo, il tentativo di trovare un accordo a livello mondiale sulle regole per il commercio, vi sarà un incontro tra i ministri degli esteri a settembre. Abbiamo parlato dei commerci. Per uscire dalla crisi occorre che ci sia libertà di commercio in tutto il mondo. Occorre soprattutto che i paesi poveri possano vendere i loro prodotti, a partire dai prodotti agricoli, a tutti i paesi che possono acquistarli. E quindi abbiamo convocato Pascal Lamy, il direttore dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Abbiamo dato a lui un preciso mandato: convocare una riunione dei ministri degli esteri nei primi giorni di settembre, in modo da poterci portare una decisione a riguardo per il summit di Pittsburgh e per poter concludere il negoziato di round, il Doha Round, il negoziato appunto sulla liberalizzazione dei commerci, il più presto possibile. Questa è la cronaca. Dopo le informazioni per chi è in viaggio, invece ragioneremo anche sull'ascito di questo vertice dell'Aquila, perché molti hanno scritto il G8, questo G8 che ha funzionato proprio perché ha incluso i G5, poi si è allargato ai G20 e ad altri paesi, ha decretato la morte stessa del G8 come strumento di incontro. Quindi quasi paradossalmente il successo del G8 è nel decretarne la morte e nell'allargarlo a un G20. E di questo parleremo con Vittorio Emanuele Parsi, che è docente di relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano, nostro ospite. Buonasera, professor Parsi. Buonasera. Allora, professor Parsi, iniziamo dal primo aspetto. Successo di questo vertice perché non è stato il vertice dei G8, ma in realtà dei G8 più G5, più il MEF, più i paesi africani. Insomma, un tavolo allargatissimo, oltre 20 paesi. È d'accordo? Ma parzialmente, nel senso che il G8 per alcuni aspetti non è mai davvero nato, mi spiego. Il G7 aveva una sua logica di rappresentanza, raccoglieva le economie e i sistemi democratici alleati degli Stati Uniti e gli Stati Uniti sul Pacifico e sull'Atlantico. Questa era un po' la ratio. Era il forum economico di coordinamento delle democrazie occidentali. Quindi già l'inclusione della Russia in qualche modo era, o quando è stata fatta, un balzo in avanti, un passo di speranza, e a mano per come le cose sono andate avanti poi in Russia è stato un'incompiuta. Quello che è importante dire del G7 e G8 che cos'è? Che comunque resta un momento in cui la solennità per alcuni aspetti, ma anche semplicemente l'appuntamento a cui si arriva, consente agli Sherpa cosiddetti e consente ai governi nazionali di avere un obiettivo a cui mirare, per cui può mettere un po' di pepe, diciamo così, sulla coda di quelli che magari sono un pochino più recalcitranti. È chiaro che non cambia le posizioni, non è che gli Stati Uniti nei tempi di Bush erano più favorevoli a provvedimenti sul clima solo perché c'era un appuntamento G7 G8, ma nel momento in cui invece ci sono governi che in linea di principio sono favorevoli però nicchiano o tergiversano, nel caso dell'Italia per esempio questo è successo, quell'appuntamento consente di dare un'accelerazione, di mettere pressione. Dall'altra parte è importante sottolineare che il G8 funziona ancora se non è un club chiuso, nel senso raccoglie, ma deve essere il trampolino che apre, non deve essere certo un club esclusivo di chi dentro è dentro e chi fuori è fuori. In quest'ottica è quello che è successo. Allora in questo senso c'è semmai un'evoluzione del senso del G8 più autentico e più, a mio avviso, aggiornato rispetto a quelli che sono i tempi che cambiano. Quindi se il G8 ha una sua propria identità, il G7, se ho ben capito il suo ragionamento, cioè lo storico tutti i paesi, Stati Uniti, Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Giappone, Canada, lasciando stare la Russia, hanno in comune di essere democrazie compiute, occidentali, atlantiche, si sarebbe detto una volta, quindi aderenti alla NATO, e quindi la Francia mica tanto, ma insomma mettiamoci dentro anche la Francia su questo, e quindi è più facile ottenere un consenso, visto che l'opinione pubblica nelle democrazie occidentali funziona e fa pressione, vedi il caso dei temi legati alle emissioni nocive, ai temi verdi, è più facile che vi sia un accordo intanto tra questi sette paesi. Beh sì, perché collega attori che sono omogenei, sì, sono significativamente omogenei, cosa che per esempio i G5 che lei citava, Brasile, Russia, India, Cina e Egitto, non sono omogenei tra di loro. E vengo infatti alla seconda domanda, non saranno omogenei, ma a me è molto sorpreso vedere come questi BRIC, che all'inizio, ossia Brasile, Russia, India e Cina, all'inizio erano nati come definizione così un po' giornalistica, questi acronimi che piacciono agli anglosassoni, e sembrava che di comune avessero solo alti tassi di crescita, alta capacità di utilizzare materie prime, ma insomma tra il Brasile democratico e sudamericano e la Cina non democratica e asiatica non è che ci fossero molti altri punti di contatto. Ebbene, a me ha sorpreso vedere invece come i BRIC e anche i G5 si siano mossi come un gruppo a sé stante. Sì, intanto avrà notato che la Russia è dentro il G8 ed è dentro il G5, è dentro i BRIC, per cui questa apparente plurima collocazione russa esprime proprio il fatto che i russi, per quanto siano stati contenti di essere arrivati a far parte del G7 allargati a loro, di fatto non si considerino un membro del club occidentale, anzitutto. Quindi per alcuni aspetti rinforza un po' la nostra sensazione precedente. D'altra parte, che cosa hanno in comune questi paesi, appunto, a parte il fatto di essere paesi che in questi anni hanno avuto alti tassi di crescita e rappresentano comunque attori politici importanti che corrispondono a economie interessanti, per così dire. Questo credo che sia poi il punto fondamentale, perché se lei mi dice cosa hanno in comune Brasile, Russia, India e Cina, sono grandi attori politici, alcuni attuali, alcuni lo erano di più come la Russia prima ai tempi dell'Unione Sovietica, altri in divenire, alcuni di scala potenzialmente globale, altri di scala regionale, però parliamo di attori importanti dal punto di vista politico. Questo è quello che li accomuna ed è il motivo per cui in questa occasione l'Egitto è stato incluso. È evidente che l'Egitto non ha le caratteristiche economiche di nessuno di questi altri quattro, però dal punto di vista politico è il paese arabo più consistente, il sistema politico arabo più solido, più rilevante per gli altri, anche per gli altri attori, e quindi questo è quello che li accomuna, ed è anche l'idea che ci ricorda che i G7, G8, G15, G20, G20 della pesca non sono economie messe insieme, sono governi messi insieme che sono, diciamo così, quelli attori politici che corrispondono a grandi sistemi economici nazionali, per quanto questa espressione possa avere ancora un significato. E in tempi di globalizzazione, con buona pace di tanti che la pensano in maniera diversa, è molto meno l'afflato sistema, l'idea sistema politico nazionale ha più senso che non l'idea sistema economico nazionale. Quindi, se ho ben capito, a livello politico regge ancora lo Stato-Nazione, per dirla con un termine alto, mentre a livello economico sappiamo già che non regge più, e la crisi finanziaria ci dimostra che qualunque disastro o investimento fatto a Wall Street poi ha ripercussioni immediate purtroppo anche sulle nostre imprese manifatturiere. A livello politico no, e quindi, se ho ben capito sul ragionamento, oltre che una vicinanza economica nei BRIC, nei G5, soprattutto nei BRIC, c'è anche una vicinanza di intenti politici, sono soggetti che vogliono agire proattivamente, fare sentire la loro voce. Certo, fare le regole anche. E per fare le regole. E si è vista la posizione cinese netta sul clima, che di fatto rende molto difficile arrivare a quell'obiettivo nel 2050 se la Cina non è d'accordo, se ridurre le emissioni del 50%. Sempre su questa scia, cioè a cavallo tra politica internazionale ed economia, una domanda ci hanno posto molti ascoltatori in questi giorni al 349-238-6666. Come mai in un summit in cui c'erano più di 20 paesi, le economie africane, l'Indonesia, l'Australia, la Danimarca, il Senegal, la Nigeria, l'Algeria, l'Angola, la Turchia, la Spagna, i Paesi Bassi, oltre G8 e G5, non vi era nessun paese, non tanto musulmano, perché l'Egitto e l'Indonesia, ma soprattutto nessun paese produttore di petrolio. Cioè il Medio Oriente, in senso stretto, l'Egitto produce petrolio, ma non a livello così consistente, era completamente assente. Beh, perché il mondo arabo, in particolare il Medio Oriente, dei paesi produttori di petrolio, se va a guardare gli stati che da prendere in considerazione, intanto parliamo di stati con popolazioni molto contenute, e quindi questo non va dimenticato. Parliamo in realtà di, in taluni casi, di monarchie o in altre di repubbliche che governano scatole di sabbia con dentro l'ira di Dio di risorse di idrocarburi e con una popolazione estremamente esigua. Parliamo poi oltretutto spesso di sistemi politici dalla stabilità e dalla solidità estremamente abile. L'Arabia Saudita è un importante attore finanziario, un importante produttore di petrolio, gioca un ruolo politico nella regione in virtù delle sue straordinarie risorse, però è una statualità estremamente fragile, per esempio. Non parliamo degli altri paesi, per cui in questo caso ancora una volta emerge abbastanza chiaramente la natura politica in senso stretto di questi organismi. Questo non è il club dei paperoni, non è al G8 non ci sono Murdoch, che posso dire io, la Aramco, la Exxon, la Chrysler. Non è Davos. No, esatto, non è Davos. È un posto in cui i decisori politici, legittimati per via politica a livello nazionale, si ritrovano per cercare di capire come fa stare insieme, coordinare nei limiti del possibile le politiche nazionali singole e i diversi singoli interessi nazionali. E da qui, se ho ben capito il suo ragionamento, professor Parsi, il perché poi, pur avendo un rilievo economico altissimo i paesi produttori di petrolio, nessuno di questi era stato invitato, al di là di, io giustamente mi farò notare che non ho citato Gheddafi, avete ragione, la Libia è un paese assolutamente importante dal punto di vista della produzione di gas, oltre che di petrolio. È vero, anche se Gheddafi è stato invitato perché il G8 è in Italia quest'anno, certo. questo G8, vediamo il prossimo dove sarà, se ci sarà, e non lo dico per disistima nei confronti del colonnello. A Pittsburgh la vedo più difficile, comunque magari mi sbaglierò io. In un'ultima battuta, la linea di politica estera americana che è uscita da questo G8, che è anche una linea di politica economica, è sembrata a molti oggettivamente discontinua rispetto a quella di George Bush, e non mi riferisco solo al clima. Sì, quello sì, perché comunque c'è un tentativo, c'è un ritorno tutto sommato a una continuità di più lungo periodo degli Stati Uniti, che è la consapevolezza che a fronte soprattutto di un potere americano ancora molto alto nel mondo, non dimentichiamocelo, una concentrazione cospicua di potere politico, economico, perché questo possa funzionare è necessario, perché questa leadership possa essere riconosciuta, è necessario quello che viene chiamato appunto il multilateralismo, cioè il coinvolgimento degli altri attori del sistema. Obama questo lo ha recuperato, e lo ha recuperato nella lunga tradizione americana, che è la stessa tradizione che ha consentito agli Stati Uniti di essere il leader egemone in Occidente. Quando gli Stati Uniti inventarono il Fondo Monetario Internazionale, si riservarono per se stessi una quota consistente, maggiore di quella degli altri, nelle azioni, diciamo così, del Fondo Monetario. Ebbene, però, una quota che era meno che proporzionale allora, nel 1945, rispetto a quello che era il peso americano nel 1945. Era un esercizio di leadership lungimirante. Era l'idea che proprio se sei il più forte, per poter fare sì che questa forza sia riconosciuta, è necessario il consenso. E la lunga tradizione americana dal 1945 in poi, Obama la sta riscoprendo, dobbiamo sperare che riesca a usarla con altrettanta lungimiranza e sagacia dei suoi predecessori. Staremo a vedere, il prossimo appunto vertice importante sarà sempre sul tema dell'economia e della finanza, quello di Pittsburgh. Grazie al professor Vittorio Emanuele Parsi, docente di relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano. Un ringraziamento a Barbara Bianchi e Mauro Del Corno per l'assistenza in redazione e in regia. Per quello che riguarda il Focus Economia termina qui, noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi, vi anticipo che da lunedì Focus entrerà in una programmazione estiva, per cui durerà solo fino alle 18. Da Sebastiano Berisoni l'auguro di un buon fine settimana.